24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le decisioni della BCE sui tassi e l'analisi del presidente Draghi, poi la crisi di governo in Italia, quindi l'allarme della Commissione sui siti non in regola. In apertura dunque le parole del presidente della BCE. Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the key ECB interest rate unchanged, owing to high energy prices. La Banca Centrale Europea, come ascoltate in sottofondo dalle parole del presidente Mario Draghi, ha lasciato invariati i tassi allo 0,75%. Nella conferenza stampa seguita al direttivo, il numero uno dell'Eurotower si è detto fiducioso sul raggiungimento di un accordo sulla sorveglianza bancaria unica nell'area euro. La discussione politica va messa in prospettiva. La Commissione Europea e il commento di Draghi ha fatto un grande lavoro. Quanto alla situazione d'insieme per l'Eurotower, le prospettive macroeconomiche rimangono deboli, ma vi sono segnali di miglioramento della fiducia. Draghi cita tra l'altro la situazione dell'Italia, dove l'indice manifatturiero a novembre è migliorato più del previsto. In Italia però torna a salire lo spread oltre i 300 punti con la prospettiva di una crisi di governo. Il PDL infatti, dopo l'annuncio dell'ex premier Silvio Berlusconi di voler tornare a candidarsi, ha tolto la fiducia all'esecutivo di Mario Monti. Non mandiamo tutto a picco, l'appello del capo dello Stato Giorgio Napolitano. Più volte evocato nel corso di questa lunga e complessa giornata politica, il capo dello Stato è intervenuto nel tardo pomeriggio per dire no ad una fine convulsa della legislatura. Non mandiamo tutto a picco, è l'appello di Napolitano che ha difeso l'operato del governo. Abbassare lo spread è stato un grosso risultato, non bisogna bruciare la fiducia guadagnata dall'Italia, ha detto il Presidente della Repubblica. Ci sono tensioni politiche preelettorali che anche fuori d'Italia possono essere comprese senza suscitare allarmi sulla tenuta istituzionale del nostro Paese. Questa tenuta è fuori questione. È però necessario a tal fine cooperare responsabilmente a una ordinata, non precipitosa e non convulsa conclusione della legislatura e dell'esperienza di governo avviata nel novembre 2011. Ai partiti Napolitano chiede ora di valutare nel modo più obiettivo e sereno possibile quali sono i provvedimenti da approvare in Parlamento prima della fine della legislatura. Il capo dello Stato si è poi riservato di sentire nelle prossime ore i rappresentanti delle forze politiche per trarre le opportune valutazioni sui tempi con i quali andare al voto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E Piazza Affari è l'unica piazza europea a chiudere negativa, anche se anche le altre piazze hanno risentito delle parole del numero uno della BCE. Tonfo di Saipem a Piazza Affari all'indomani dello scoppio del caso Algeria. Il titolo della controllata dell'Eni ha perso il 6,7% in borsa dopo essere arretrata in avvio di seduta del 14% circa. Ieri la società ha annunciato di essere indagata dalla Procura di Milano per un contratto siglato con la compagnia petrolifera algerina Sonatrach. L'inchiesta, i cui impatti economici sul gruppo non sono al momento quantificabili, ha portato alle dimissioni dell'amministratore delegato di Saipem e alla sospensione di un altro dirigente. Giornata pesante in borsa anche per A2A. L'allarme sui conti 2013 e 2014 lanciato dal colosso francese EDF e il rialzo dello spread tra BTP e Bund, che penalizza le società molto indebitate, ha spinto il titolo dell'utilities milanese in discesa del 3%. Da Radio Corp per Radio 24, Andrea Fontana. Diplomazia europea preoccupata per la crisi in Medio Oriente. L'Unione Europea ha convocato l'ambasciatore di Israele per discutere con il segretario generale del servizio esterno dell'Unione dei nuovi insediamenti previsti. A destare la preoccupazione dell'alto rappresentante europeo per la politica estera e la sicurezza, Catherine Ashton, sarebbe in particolare la portata dei progetti annunciati da Tel Aviv. Rischierebbero di compromettere, secondo una portavoce di Ashton, la possibilità di creare in futuro uno Stato palestinese contiguo ad Israele. Voltiamo pagina. Un sistema di incentivi fiscali ai consumatori per l'acquisto di auto verdi. Per aiutare il settore dell'auto è questa una delle possibilità suggerite dal vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, che sta avendo una serie di incontri con i sindacati e i produttori. No quindi ad aiuti di Stato che non sarebbero compatibili con le norme comunitarie sulla concorrenza, né premi alla rottamazione, ma piuttosto aiuti ai cittadini che vogliono acquistare un veicolo pulito, ha spiegato Tajani. Stiamo lavorando con tutte le parti interessate, non soltanto gli amministratori delegati delle compagnie automobilistiche, ma anche tutte le aziende che producono pezzi di ricambio, che lavorano al lato delle imprese dell'industria automobilistica e con i sindacati. C'è una volontà di collaborare e per me è stato importante raccogliere le opinioni dei diversi settori per poi preparare la riunione con i ministri dell'industria informale che ho convocato per una cena di lavoro domenica, durante la quale discuteremo del problema della sovraccapacità, del problema dell'eventuale ristrutturazioni e della necessità di avere una strategia europea onde evitare un contrasto tra diversi paesi o tra diverse industrie. Il giorno 10 poi ci sarà il Consiglio Competitività, durante il quale discuteremo del piano d'azione dell'auto, quindi del famoso CARD 2020, per valutare tutte le iniziative anche operative che dovremo prendere per trasformare, anche in base all'ultima decisione della politica industriale dell'Unione, nel settore dell'auto come uno dei settori chiave per la reindustrializzazione dell'Unione Europea. Alla vigilia degli acquisti natalizi, il neo commissario europeo ai consumatori lancia l'allarme. Il 75% dei siti che vendono giochi, libri e video scaricabili non sono a norma. Sono questi i risultati di un'indagine sintetizzata così da Paola Testori della Direzione Generale Salute e Consumatori al microfono di Gigi Donelli. Il risultato è che la maggioranza, quindi quasi il 70% di questi siti, non rispettano tutte le regole, diciamo, di protezione dei consumatori. Non informano il consumatore che il consumatore ha il diritto di rendere il gioco o di rendere, diciamo, il disco, la musica. Non danno informazioni sulla propria identità, quindi se un consumatore vuole protestare non sa a chi indirizzarsi. E poi non spiegano al consumatore che quando si è scaricato un gioco o si è scaricato della musica, lo si può usare soltanto nel paese di residenza, cioè se uno cambia paese non si può più usare. Insomma, un quadro più complesso di quanto non si immagini. Voi avete dedicato un'attenzione particolare ovviamente ai bambini. Bambini, grandi, come dire, la generazione dei nativi digitali, che corrono anche rischi e fanno correre rischi magari le carte di credito dei genitori. Certo, perché diciamo, noi sappiamo oggi che 8 su 10 consumatori usano o hanno comprato online dei giochi o della musica, nei giovani, nei bambini è quasi la totalità, e quindi è importante che non vengano presi in trappola da pagamenti obbligatori una volta che sono entrati in un gioco. Dopo l'inchiesta noi e le autorità nazionali competenti prendiamo contatto con questi siti online, gli indichiamo come devono rispettare le leggi e in genere gli operatori obbediscono. Mancano poche ore alla prima della Scala. Quest'anno sarà il Lohengrin di Richard Wagner ad inaugurare il cartellone del celebre Teatro Meneghino, non senza qualche polemica per la mancata scelta di un'opera dell'italianissimo Giuseppe Verdi. Quest'anno cade infatti il bicentenario di entrambi i compositori. Al di là delle discussioni, in questo Lohengrin si può leggere però ben altro, come racconta Armando Torno. Quello che farà specie sarà un Lohengrin che effettivamente avrà tolto un po' del mito e guarderà la realtà con un po' più di psicoanalisi. Forse è giunto il tempo di trasformare i miti in psicoanalisi. E allora, guardando questo e pensando ad altro, io direi che le oltre 5 ore del Lohengrin di questa sera vanno un po' attese per capire come andrà anche la situazione. In fondo nella Sala della Scala si rispecchia l'Italia. Ci sarà uno Monti, si saprà oggi pomeriggio, ci saranno o no alcuni ministri, si saprà oggi pomeriggio. Insomma, Lohengrin è anche pieno di sorprese. Infine allo sport, si giocheranno in diversi paesi gli europei 2020 di calcio. Lo ha annunciato a Losanna il segretario generale della UEFA Gianni Infantino, accogliendo la proposta del presidente Michel Platini. Si tratterà di un europeo per l'Europa, ha affermato il segretario generale della UEFA. Solo a marzo si conosceranno però i dettagli. 24 ore in Europa termina qui, un saluto da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.